Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Allora, dovete sapere che da poco tempo, da un paio d'anni, un bravissimo magistrato che si è formato e come le ossa in varie parti d'Italia, soprattutto a Roma, avendo a che fare con dei casi abbastanza spinosi, viene mandato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Bene, per chi non lo sapesse, Lamezia Terme è quella che io amo definire la capitale mancata della Calabria, perché avrebbe tutto per esserlo. Ha tutte le reti, diciamo così, infrastrutturali, ha un tessuto anche economico importante e soprattutto ha due ingredienti che purtroppo nella Calabria malata non mancano mai: massoneria deviata ai massimi livelli e furiose cosche dell'Ndrangheta. Diciamo che non ha niente da invidiare nel bene e nel male al resto della Calabria. Allora, cosa fa il capo della procura di Lamezia Terme? Tomo tomo, cacchio cacchio, come direbbe Totò, tira fuori dal cassetto delle pratiche dei mobili da battere che stavano nel cassetto da circa 2 anni. Oibò, dice, ma insomma qui bisogna fare queste demolizioni, dobbiamo abbattere degli immobili abusivi. Quando si toccano gli immobili abusivi alla Lamezia Terme, dove la percentuale di abusivismo è altissima, lo capite da soli, si toccano gli interessi mafiosi. E quindi Salvatore Vitello dice, procediamo ragazzi, chiama il genio militare da Palermo, arrivano e cominciano le demolizioni. Non vi dico quello che è successo alla Lamezia Terme, la politica parolaia che si intimorisce, si mette paura, comincia a blaterare, poi c'è una elezione del Consiglio regionale vicino, la politica che invece doveva sostenere non sostiene, insomma, ovviamente si fanno come gli struzzi, no? La testa sotto la sabbia. Lui va avanti, comincia ad abbattere i primi immobili, ma siccome ha un cuore dice, vabbè, attenzione, aspettiamo, vediamo, dopo alcuni abbattimenti, qual è la situazione con il nuovo consiglio comunale. Ed allora, ad un anno di distanza da quei primi abbattimenti, io ho pensato bene di chiamare il capo della procura della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Vitello, per sapere come è andata a finire. Buongiorno Vitello. Buongiorno, buongiorno Galullo. Allora, ho riassunto bene o ho riassunto male? No, ha riassunto benissimo. Devo dire che questa sua domanda e anche diciamo la trasmissione che lei fa su questo tema è importante, perché dà modo di capire cosa significa legalità. Bene, perché bene. Sulla bene. Demolizione, diciamo, la demolizione è un esempio di come la legalità deve essere intesa e deve essere affermata. Intanto, a un anno di distanza, noi abbiamo di nuovo le ruspe a Lamezia. Oggi, proprio in questi giorni, ma proprio anche oggi, ci sono in corso demolizioni. Sono state programmate altre 15-16 demolizioni, sono state fatte già 7-8 e entro diciamo dicembre se ne faranno ancora. Però ci sono delle particolarità che devo segnalare. Prego. Cioè, delle cose importanti. No, quando io ho iniziato le demolizioni, esattamente di questo periodo dell'anno scorso, avevamo 400 pratiche di esecuzione, cioè di demolizioni da fare. Beh, dopo quell'attività iniziale che ha riguardato circa 10 abitazioni, e in particolare una, guardi, quella che apparteneva a uno vicino a una famiglia mafiosa, si sono ridotte a 250. Oh, e come è accaduto questo miracolo? Intanto perché alcuni si potevano mettere in regola e non lo facevano. Certo, certo. E quindi c'è stata la corsa a mettersi in regola. Quindi questo la corsa al... che il comune, diciamo, per il comune e anche degli introiti, perché mettersi in regola significa fare riferimento per chi era diciamo nelle condizioni di poterlo ottenere al condono pregresso, oppure il fatto che uno ha costruito senza chiedere la concessione nonostante la potesse ottenere, e quindi concessione in sanatoria. Quindi lei ha fatto, come dire, un piacere al comune, il comune che non ha avuto il coraggio, perché ricordiamolo che era in capo al comune l'obbligo di demolire, ora ne trae un grande beneficio. Anche, diciamo, anche come dire, a livello di immagine che non è solo forma, è anche sostanza, per quello che, certo. Per quello che ora le dico. Come lei ricorderà, l'anno scorso ci sono stati movimenti di massa, direi, sì. Non di popolo, ma di massa, sì. Delle persone interessate, che erano tante, e quindi si sono raggruppate e hanno protestato, hanno occupato autostrade, hanno occupato ferrovie. Assolutamente. Per quest'anno niente. Allora questo ha un significato, significa che la gente ha capito l'importanza della funzione istituzionale, cioè la gente si rende conto che la procura fa quello che deve, e che quello che deve significa ristabilire la legalità. No, tutto si è svolto in questi giorni, ma parlo di cose attuali in atto, certo. Senza che ci sia stata alcuna protesta, e anzi, quando arrivano le ruspe con le forze di polizia, vi è tuttora da parte di alcuni la disponibilità a dire: beh, lasciateci demolire, l'opera la proseguiamo noi. Quindi in buona sostanza diciamo che quella fomentazione che c'era stata è venuta meno, e quindi vuol dire che voi andrete avanti nel vostro programma di demolizione. Certo, quello è sicuro, noi stiamo andando avanti, c'è stato ora una presa di posizione politica, ma la ritengo giusta di occuparsi del problema, perché il problema rimane, da 400 che erano ci siamo ridotti a circa 200 casi ancora da demolire, ma nel frattempo sono passate in giudicato altre sentenze che riguardavano l'abusivismo, che riguardavano la demolizione. Certo. Perché lei ha detto una cosa giusta che la Lamezia è veramente una bella città, ed è una bella città, ha tante opportunità e soprattutto ha tante potenzialità, e ci vuole alla fine poco perché le cose funzionano in maniera assolutamente migliore. Ci vuole rispetto della legge, ci vogliono principi e regole che Salvatore Vitello, capo della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, ha portato a partire da un'opera di demolizione distruttiva, sì, ma costruttiva invece dei processi e degli anelli di legalità, come io amo dire sempre, quando ciascuno fa la propria parte. Grazie a Salvatore Vitello, grazie a Carmelo Lauricella e a Laura Fagin, l'uno in regia, l'altro in redazione, e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.